dalle torri e da bastioni d'ambosa, io solo errava. Quando apparirvi Dio, una ricca lettiga al voltar del sentier, a cui fea cerchio uno stuol numeroso e discortese di giovani studenti, i gridi lor e il minaccioso ardir mi fanno certo del travo pensier. Io mi slancio, li pongo in fuga, Oh, no!